Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Popolo dei già svegli, buongiorno. Possiamo cominciare. Luca Telese vi saluta. Io eviterei di parlare con giornalisti unicellulari. Francesco ha un ottimo udito, la tua sedia cigola. Fatemene una ragione, perché una nuova Radio 24 non ce la conta. Serve la sedia è una sedia fatta con gli arredi dell'Eyar. Sono sveglio perché odio Telese. Fammi parlare. E siamo partiti con grande ritmo, con il Depeche Mode e con un grande ospite qui in studio, Alberto Castelvecchi. Buongiorno, buongiorno. Professore, editore, insegnante di public speaking, che è una professione ormai importantissima, professore di public speaking, ovvero l'arte di saper parlare, che in questi tempi è sempre più rara. E tante cose oggi nella puntata della settimana, il riassunto di quello che abbiamo detto e la sintesi di quello che è accaduto. Allora, oggi si discute di tante cose. Pensate, questa mattina, di prima mattina, una voce di discussione su Twitter è Profondo Rosso. È andato su Iris, questo vecchio film di Dario Argento, e ha acceso il dibattito. Perché? È perché in qualche modo i fantasmi del passato tornano, no? Pensa che è tornato Berlusconi, come dire. Ecco, e qui abbiamo bisogno di emozioni forti. Voglio, è il tormentone della settimana, la dieta di Berlusconi, il motivo per cui io lo invidio. È apparsa oggi un'altra foto, sono come le foto che, no? Secondo me è una campagna mediatica straordinaria, con lui che prende una birra. Berlusconi prende una birra ed è magro, invidiato dalla Meloni, che ha detto non so come abbia fatto. Ha fatto così, è andato alla clinica di Chenot, 3.500 euro, ha perso 20 kg. Ma come fanno? Glieli tolgono con le siringhe? Come fanno? Io ho trovato ancora più interessante la foto in cui lui in un autogrill, sai, questo fa parte del con filone, con la noce di prosciutto, perché la guarda come un tempo guardava le olgettine, cioè la guarda, con un desiderio erotico, tipo dire un giorno ti farò mia. Perché sai, le diete hanno anche questo aspetto, che provocano visioni mistiche, no? E trasferiscono il piacere, il gusto del proibito su terreni diversi. Su quel terreno lì, sul piacere primario italiano, che è il cibo. Secondo te è primario sul sesso? Una volta Franco Califano, che era noto per, diciamo, partiamo citando i grandi, quando facevo l'editore ho pubblicato due libri, Franco Califano, Calisutra, mi disse con la sua famosa vocione, dice: ci stanno certi piatti di pasta che io con tutto rispetto me li farei. Cioè sostanzialmente pure Califano, che aveva avuto 1000 donne, di fronte al mito nazionale del piatto di pasta non resisteva eroticamente. E quindi siamo sospesi fra la passione per il sesso, la passione per il cibo, la rabbia, la grande rabbia che continua. Allora, oggi, più tardi, per chiamare 800 24 00 24, ma chiamateci pure adesso se siete appassionati, ma soprattutto gli SMS 349 238 6666 per farci sentire la vostra voce, per segnalarvi perché secondo voi c'è qualcosa di importante. Partiamo con il Fritto Misto, che ci dice a che punto siamo stamattina. What I saw in India is what I would describe as the incarnation of human cruelty at its extreme, with despair in their eyes and just whispering, get me out of here. Poi abbiamo adesso i giorni della zanzara, che è anche più patetico, se non fosse drammatico. Se si cerca il consenso con la paura, si può ottenere a 3 giorni, a 1 elezione, ma poi si va a casa. Io ne sono testimone, che ho fatto una politica sulla paura e ne ho pagato le conseguenze. Lei ha figli? Non so, sono vaccinati, immagino, li vaccinerebbe? No, io non ho figli, se avessi figli li vaccinerei. sostanzialmente nemmeno... parliamoci no. chiaro, siamo in una situazione in questi mesi quasi di appoggio sia... esterno. Giuliano Pisapia ha una posizione diversa da MDP articolo 1, per lui la priorità nella sua presenza in politica non è l'uccisione politica di Renzi. Allora, rieccoci con Alberto Castelvecchi, editore, professore, grande curioso del mondo. Cominciamo subito da dire le notizie del giorno che avete intrasentito in questa sintesi. Marcia indietro di Zaia, la resistenza del Veneto ai vaccini è durata 24 ore, doveva durare 2 anni. Ma invece la rabbia dell'Abolino contro la zanzara, non la zanzara indigena nostra di casa di Cruciani e Parenzo, ma la zanzara killer. Continua la campagna di Libero sugli immigrati che portano le malattie. Terzo giorno, malaria importata, ecco le prove. E soprattutto questa dichiarazione di Pietro, molto stupefacente, siccome sei anche appassionato di comunicazione, ieri all'Aria che tira, di Pietro, incalzato da Luigi Crespi, improvvisamente Crespi parlava di comunicazione della paura, riferendosi ovviamente agli allarmi, alle malattie, e lui ha detto: anch'io l'ho praticata. E cioè, veramente è la revisione di Mani Pulite più folle che si sia mai sentita. E questo dimostra comunque come alla distanza del tempo le persone sono un po' più indulgenti, perché se ricordiamo bene, la fase di Mani Pulite è stata la fase del terrore più che della paura, cioè tutti parlavano di un terrore giacobino, la paura diventò un vero e proprio terrore in quel periodo, ti ricordi? No? Sì, però il terrore giacobino ha una sua grandezza nobile, qui dice: io ho praticato la paura per tirare giù il palazzo. Come e leva quindi, politica, esattamente. Ecco, vale la pena? È di nuovo una grande domanda della storia. Senti, ti vorrei porre subito un tema che mi ha colpito dai giornali di oggi, cioè il tema incredibile dei carabinieri, ormai comincia a crescere, accusati di aver violentato delle ragazze. Come ci dobbiamo porre quando l'istituzione più sicura d'Italia, quella di cui tutti gli italiani si fidano, viene per la seconda volta, perché non è la prima, insomma, tirata in ballo su un tema scabroso? Ricordiamo la vicenda di Marrazzo, ora esce fuori, Dio salvi l'arma, ovviamente non generalizziamo, però colpisce molto. Ma dunque, le hanno chiesto un passaggio e poi, se sono vere queste accuse, è accaduto. Dunque, in questo momento il comando regionale dei carabinieri si è messo a disposizione della magistratura per fare chiarezza. Io sto ai fatti. I fatti sono che a Firenze le due ragazze erano americane. C'è stata una rissa in discoteca, sono arrivate 3, a quanto non ricordo, macchine dei carabinieri per sedare la cosa. Il passaggio che non è chiaro è: due di queste ragazze americane vengono riaccompagnate a casa dai carabinieri. Poi quello che sia successo esattamente non si sa, perché gli stessi inquirenti, che in questo caso per un fatto di galateo sono i poliziotti, non oltre ai carabinieri che stanno facendo un'indagine interna, dicono che molti punti della ricostruzione sono lacunosi. E quindi stiamo a vedere quello che succede. Sai, il fatto, io ho fatto il carabiniere da ragazzo, ero un carabiniere ausiliario. L'editore Castelvecchi, trasgressivo di tendenza, ha un passato nell'arma. Io ti posso dire, obiettivamente c'è una grande disciplina morale in questa venerabile istituzione, però su 100.000 carabinieri in servizio io non posso garantirti che siano tutti santi. In questo caso sarebbe particolarmente grave se quello che è stato denunciato delle ragazze è vero, ma so che l'arma è altrettanto, diciamo, è così implacabile nel tutelare la sua reputazione quanto implacabile nel punire quelli che... Nell'arma, sai, per esempio, mi ricordo, mi dicevano sempre, se qualcuno viene beccato a fare una rapina lo mettiamo a disposizione del magistrato, ma se uno dei nostri lo facciamo nero, cioè quando vengono toccati nell'onore, se qualche carabiniere è una mia marcia, secondo me prima o poi la paga. Io ho ancora questa fiducia. Però allora, la roba è grave, cioè, obiettivamente, se questo è vero è tostissimo. Tema che ci colpisce per come una azione provoca una reazione. Sta tornando lo studio a casa, il precettore. Ma sai perché? Perché così non sono costretti a mandare i figli a scuola e a subire la vaccinazione. È una notizia che prendo da Repubblica. Due ragazze che hanno costituito un asilo, diciamo così, privato in un boschetto molto carino, sono state sommesse di richieste, hanno esaurito tutti i posti perché era un modo per evitare, diciamo, il vincolo di vaccinazione che, come sapete, c'è in tutte le scuole pubbliche. Non so come ti sembra, una buona o una cattiva notizia? Ma dunque, se il precettore sostituisce l'immenso business delle ripetizioni, le quali ripetizioni a loro volta sostituiscono le immense carenze della scuola dell'obbligo, ben venga. Se il precettore ha un rapporto di quelli, sai come c'erano anticamente, la scuola a casa, di l'ultima frontiera umana, dei genitori Novax, Ilaria Venturi. Il punto è, se serve a evitare la caccia all'untore, cioè visto che se io vado a scuola non mi vaccino, poi ci sono gli extracomunitari brutti che mi portano la malaria a scuola, cioè siamo in una specie di delirio nazionale in cui la presenza dell'altro viene vissuta come contagio. Allora l'idea che la scuola, che invece è un luogo pubblico, ci porta a contaminarci in senso buono, cioè stiamo a scuola e invece me la faccio a casa da solo, la scuola fai da te, sinceramente mi sembra uno spettro molto sinistro. Tra l'altro c'è chi il precettore se lo può permettere e chi no, quindi io... è quello il problema. E chi non ha il precettore, strade in diretta. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta "24 mattino". I già svegli. Sono sveglia perché mi devo preparare per andare al lavoro e nel frattempo ascolto la radio per aggiornarmi, per sentire un po' di musica e per svegliarmi soprattutto. Sono Gian Guido e faccio il tornitore. Ogni mattina mi sveglio alle 5 e mi sono rotto le palle. Buongiorno Deleuze, io non riesco a dormire, quindi insonnia. Però mi piacerebbe che lei entrasse da noi un po' più morbido, più tenero, ci racconti qualcosa di lei. Non ci butti giù dal letto con la notiziaccia, col tono... Sia dolce. E adesso abbiamo anche una potente casella di segreteria telefonica, 02465244492, l'ha inaugurata questa soave signora, ma molti dicono svegliamoci, visto che siamo svegli, svegliamoci con brio, poi dopo prendiamo un ritmo più lento. Però lei mi ha chiesto una cosa privata: ieri mattina alle 4 del mattino mi ha svegliato mio figlio, che è preoccupato per me, ha fatto: papà, devi andare in radio. E poi si è messo sul divano del soggiorno e si è addormentato. Allora io avrei voluto quella mattina dire: vabbè, lasciamo perdere, resto qui, gli faccio un po' di coccole. E invece sono venuto a molestarvi. Allora torniamo, Alberto Castelvecchi. Chissà se l'imitazione di Califano che abbiamo fatto prima è piaciuta a questa signora, no? Cioè, signora che ti svegli, il califfo è col te. C'è una cosa magari più dolce, più erotica. No, insomma. Però Califano aveva una sua morbidezza kitsch. Abbiamo già sveglio anche Carlo Freccero. Buongiorno maestro. Buongiorno a te. Allora, grazie per questo eroica levataccia, perché solo tu ci puoi spiegare il caso del giorno. È su tutti i quotidiani e ovviamente c'è un dibattito. Castelvecchi, che era sveglio da prima di noi, mi segnala il pezzo durissimo di Ferrara, ironico, la chiama Frau Milena, il Corriere ovviamente sta dalla sua parte, il Fatto grida la censura. Che cosa è successo sulla Gabanelli che minaccia di lasciare la RAI? Perché ho letto nella sua intervista di stamattina che lei è andato al direttore del personale, ha chiesto quante risorse gli avrebbe dato a disposizione, lui ha risposto 40 uomini e lei, voglio dire, Freccero, anzi ci diamo del tu, e tu hai pensato, beh, è una squadra giustamente che hanno i più importanti siti nazionali, eppure a Milena Gabanelli non è bastata. Bene, allora cominciamo subito con la premessa. È fondamentale avere un portale news online, tutte le maggiori televisioni lo hanno, tutti i giornali eccetera eccetera. Allora, questa è la premessa di ogni cosa. Naturalmente per fare questa cosa occorre avere una direzione autonoma, ma come voi sapete, come ho cercato di spiegare e come lei in qualche modo sa, io parlo della Gabanelli. Sa benissimo che non è possibile approvare una nuova testata se non c'è in qualche modo un modo di accorpare quelle altre testate. E va bene, questa è la premessa. Allora, quindi ci sono due esigenze: da una parte l'esigenza di partire subito, dall'altra che non è possibile creare questo. Io ho cercato compromesso, come sempre nelle televisioni occorre fare. Beh, cominciamo un attimo da una co-direzione della Rai News. Perché questa PD è benvenuto, perché non è che le idee nascono così perché ci sono uno c'ha un po' di fantasia, no. Perché durante la discussione precedente che ne avevamo avuto sul piano dell'offerta informativa, si era pensato, si era detto che Rai News doveva costituire in qualche modo la raccolta di tutta la parte televisiva delle notizie e dall'altra parte l'online, dall'altra parte un portale online di tutte le notizie raccolte attraverso il web. Quindi ecco perché la proposta della condirezione, perché già in nuce, già in questa idea, che in questa ipotesi di lavoro, mi sembrava giusto quindi iniziare a creare una condirezione divisa, attenzione, okay, ma non questo, condirezione formale. Questo è chiaro, cioè quindi, la Gabanelli avrebbe dovuto accettare un primo passo per poi arrivare, ecco, però visto che Freccero è uomo di immagine, lei dice giustamente, però attenzione, questa idea che potrebbe essere anche valida, voi sapete benissimo che i giornalisti delle altre testate non mi danno le notizie, i miei colleghi non anticipano le notizie dentro il sito di una testata vissuta come in qualche modo non prestigiosa. Ho riassunto bene? Benissimo, ma la domanda di fondo è la RAI che sta incastrando la Gabanelli alla fine, no, questa, guarda, soluzione, allora, come lei, allora, un attimo, solo la questione è questa, è giusto la paura e la Gabanelli, questi mi stanno facendo la festa in un gioco di scatole cinesi in cui poi non conto più niente? Ma da parte mia no. Io poi chiaramente lei, Telese, cioè, scusami tanto, diamoci del tu, ci conosciamo, cioè io da parte mia, anzi, io ritengo talmente urgente la presenza della Gabanelli e l'offerta informativa della RAI che sto facendo il diavolo a quattro, e la riprova di quella stima e la riprova anche dell'urgenza della sua opera che sia in qualche modo fattiva da subito. Io da parte mia no, lo posso garantire, lo giuro e do la mia parola d'onore. Anzi, poi si avviciniamo, io la cosa che devo dire, che di cui sono molto contento, che tutto ciò ha posto sul tavolo una cosa fondamentale, l'urgenza del piano dell'offerta informativa, di riorganizzazione dell'offerta informativa. E sentiamo Castelvecchi, che è qui con noi. Allora cito questo articolo di Ferrara, così mette un po' di sale. E questo dispiace: Frau Gabanelli ha fatto un buon lavoro di giornalismo investigativo e di denuncia, e lo ha fatto tutto in RAI, passando da una direzione generale all'altra, da un regime all'altro, da un governo all'altro, senza troppi problemi, sfrugugliando i poteri economici, la politica dei partiti, il cognato di Tremonti, gli inserzionisti della Sipra, il tutto nella massima libertà e con l'aiuto dei collaboratori di primo ordine. E allora la domanda è: ma forse non stava meglio al report, piuttosto che combattere con le strutture, con il sito, con le redazioni da integrare? Allora, questo è un caso tutto italiano. Carlo conosce meglio di noi gli equilibri interni alla RAI, perché è un'azienda che frequenta da tempo. Quello che dice Giuliano Ferrara in questo pezzo è che la Gabanelli se n'è andata lei dal report, quindi in qualche modo, o perché era stanco, perché era stanca la formula, perché calavano gli ascolti, a un certo punto Gabanelli non fa più quel programma lì, probabilmente perché punta più in alto. Ora, vedi Luca, noi in Italia abbiamo una specie di trimurti, ci sono tre santi del dissenso nazionali, no? Uno è Marco Travaglio, che lavora sul Fatto, uno è Roberto Saviano, arruolato nelle schiere dei Benedettiani Gruppo di Repubblica, Espresso. E abbiamo la Gabanelli, che era un po' il dissenso interno della RAI, diciamo la patente di Virginia, la corsara di della RAI. Ora, io faccio solo un commento abbastanza amaro. In un'altra parte del mondo, visto che ci sono siti potentissimi web che si fanno con 10 pischelli, se ti dicessero ti do 40-50 persone per come fare un canale Freccero, web, sta prestito cavolo champagne. Faccio festa, perché il web oggi è la cosa più potente, quello che ha portato al potere i 5 Stelle in molte città italiane, no? Invece in Italia continua a contare il fatto che se non ti danno il tuo spazio televisivo non conti. Io, se oggi mi dessero 40 persone per fare un sito web, ma ci faccio la terza guerra mondiale. Cioè, in allora, quindi, abbiamo allora proprio che il web non giustizia conta. La considerazione, Freccero, in 20 secondi una sintesi. No, io spero due cose. Spero che il piano dell'informazione sia fatto brevemente, velocemente, velocissimamente, come mi è stato detto, e così la Gabrielli può partire. Mi dispiace che la mia proposta, che era una proposta in qualche modo, diciamo così, di buona volontà, e soprattutto spiegava l'urgenza che c'è oggi in Rai di avere in qualche modo un portale web, mi dispiace che non possa partire da domani mattina. Allora, sono molto triste. Grazie, dobbiamo fermarci, i tempi sono molto ritmati. Giornale radio, strada in diretta, e ci vediamo subito dopo.